Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Valentina Conforti, la sicurezza di cavò e casseforti a prova di scasso da oltre 100 anni. Diana Marino. Io ho sempre vissuto praticamente in un'abitazione dove ho sempre visto casseforti negli armadi, in cantina, un piccolo cavò, eccetera, l'impianto d'allarme. Per cui, ecco, soprattutto l'impianto d'allarme soffre di obsolescenza, quindi bisogna mantenerlo sempre. Quindi cambiare, se non altro, la batteria della sirene, delle cose, almeno un tot di anni. L'evoluzione dei nostri prodotti viene fatta proprio in base alle tecniche di scasso. È stato così storicamente da sempre, a seconda delle tecniche di furto di scasso vengono realizzate le misure difensive per proteggere valori, persone e luoghi. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, come spiega Valentina Conforti, la sicurezza di casseforti e cavò deve essere sempre all'altezza delle innovazioni e non bisogna mai abbassare la guardia. Conforti progetta, produce, installa e fornisce assistenza per sistemi fisici ed elettronici di protezione dalle porte corazzate ai sistemi di allarme alle casseforti. Si tratta di una delle più antiche aziende scaligere che conta 105 dipendenti e realizza un fatturato di 13 milioni di euro, il 15% da clienti stranieri. È l'esperienza ultracentenaria a parlare per questa società, Conforti, fondata nel 1912 da Silvio Conforti e da allora proprietà della famiglia. In quell'anno il fondatore costruì una cassaforte che vinse il primo premio al concorso nazionale per artigiani Weil Weiss. Un forziere, ma anche un'opera d'arte. La passione per la lavorazione artistica dei metalli è stata centrale fin da subito per il laboratorio Conforti, nato nel centro di Verona. Tutto nasce da una passione di mio nonno Silvio Conforti. Nel 1912 decide di partecipare ad un concorso indetto da un barone mecenate di allora per artigiani, producendo il primo pezzo, cioè la prima cassaforte, che era talmente bella, vinse il primo premio e da lì vinse 450 lire, questo era il premio del concorso, per partecipare a uno stage a un'azienda di casseforti a Torino e dopodiché, dopo aver partecipato a questo stage, rientra a Verona e insieme al fratello aprono la prima bottega artigiana di cassaforti incombustibile e intrapanabili. Queste erano le tecniche di scasso quindi di allora. Durante la guerra la Conforti affronta le difficoltà e si adatta anche a soluzioni e cambiamenti particolari. Mio nonno aveva una passione era bravissimo manualmente. Le prime commesse importanti furono proprio dettate dalla necessità di sicurezza degli orafi vicentini, che quindi, dovendo contenere dei valori importanti, chiesero delle casseforti importanti. E da qui incominciò proprio la storia aziendale più che di bottega artigiana. Infatti dalla prima bottega si trasferirono i due fratelli, quindi Silvio e Celso, vicino al centro storico di Verona, realizzando il primo stabilimento. Dopodiché è intervenuto però il secondo conflitto mondiale. L'azienda fu militarizzata, quindi si sospese la costruzione delle casseforti, ma venne impiegata l'azienda per la costruzione di materiale bellico, soprattutto delle carlinghe degli aerei Messerschmitt. L'azienda subì gravi perdite comunque durante la Seconda Guerra Mondiale, perché venne anche bombardato lo stabilimento, quindi la ripresa successiva fu difficile. Però i due fratelli non si persero d'animo e cercarono una via d'uscita. La via d'uscita fu proprio quella, perché chiaramente dopo una Seconda Guerra Mondiale la prima necessità non era forse di vendersi dai ladri, bensì mangiare. E quindi convertirono la produzione delle casseforti in forni per pane. E da quegli anni fino a quasi la fine degli anni 70, questa produzione di forni per pane continuò parallelamente poi alla costruzione anche delle casseforti. Ma si vendettero centinaia e centinaia di forni in tutta Italia, alcune funzionanti pure adesso, ci telefonano ancora i fornai chiedendo i pezzi di ricambio che purtroppo però non abbiamo più. Nonostante le difficoltà del primo dopoguerra, la Conforti si espande negli anni 20 e 30, diventando fornitrice di cavò a numerosi istituti bancari. Negli anni 50 al fondatore Silvio si affiancano i figli Franco e Leopoldo, che diversificano la produzione con 3 stabilimenti e aziende collegate in Spagna, Francia e Ungheria. L'azienda era abbastanza già affermata, perché comunque le commesse importanti per, appunto, Orafi, non più solo Vicentini a questo punto, ma in tutta Italia, cioè degli ambienti ad alto rischio, come per gli istituti bancari, erano già in atto. Però nel 1950 chiaramente c'è un po' il boom, incomincia nel 50-60 il boom economico. Entrano in azienda intanto i due figli di Silvio, Franco e Leopoldo, e quindi la seconda generazione che dà un impulso netto all'azienda. Sono state due persone lungimiranti, hanno collaborato insieme per quasi 50 anni, diciamo dividendosi effettivamente i compiti all'interno dell'azienda. Franco era ingegnere meccanico, era l'uomo della progettazione, l'uomo della produzione, della costruzione dei prodotti, quindi più interno all'azienda. Mentre Leopoldo, mio padre, era un uomo di marketing. Lui ha girato tutta Italia e parte del mondo, ascoltando le richieste dei clienti e traducendo poi questi clienti, dando gli input perché poi la produzione creasse questi prodotti. Furono gli anni della grande collaborazione tra gli istituti di credito, tra la grande distribuzione organizzata, la GDO, per creare dei prodotti che, con mille modifiche, con mille tecnologie di avanzamento, però in gran parte troviamo ancora adesso. Nel corso del 2004 la Conforti S.p.A. ha vinto una selezione nazionale delle Poste, aggiudicandosi la fornitura di un sistema antirapina nelle casse postali. Ma negli anni ogni prodotto ha seguito le sempre più esigenti richieste di sicurezza per diventare resistente ad ogni attacco. Dagli anni 60 in avanti la richiesta del mondo bancario era proprio quella di costruire questi cavò veramente molto importanti, all'interno dei quali poi venivano poste tutte le cassette di sicurezza, cioè il tesoro della banca e dei clienti. Venivano realizzate proprio con delle opere murarie, all'interno proprio della muratura venivano poste delle sagome particolari in metalli speciali per contrastare eventuali attacchi con la fiamma ossidrica, con la lancia termica molto più pericolosa, e poi all'entrata del cavò veniva realizzata la porta corazzata. Negli anni 90, quindi successivo, abbiamo realizzato, sono state un po' il fiore all'occhiello di questo tipo di produzione nell'azienda, tre porte circolari grandissime per la Bank of China. Erano delle porte circolari con l'espansione dei chiavistelli radiali, dove il passaggio uomo era più di 2 metri, quindi porte da 12 tonnellate, automatizzate, completamente rivestite in acciaio inox, veramente spettacolari. La riservatezza si accompagna alla sicurezza, alla trasparenza e affidabilità, tanto da tagliare i ponti una volta concluso il lavoro. Valentina Conforti fa un esempio. Non sarebbe sicurezza se noi tenessimo copia delle chiavi, dei forzieri, delle casseforti o diciamo il codice degli impianti d'allarme dei nostri clienti. Non sarebbe sicurezza, quindi assolutamente no. Questa alle volte appunto viene frainteso, perché quando il cliente perde la prima chiave mi dice: ah, ma l'altra l'ho messa in sicurezza, è dentro la cassaforte, che però non si può più aprire, quindi diventa inutile. Però purtroppo in quei casi lì bisogna intervenire con il nostro servizio di assistenza tecnica, che è molto preciso e puntuale, con uno scasso sul mezzo forte e poi eventualmente il ripristino. E la sicurezza ha incontrato anche l'arte, come spiega Valentina Conforti. Fino a questo momento l'idea della cassaforte, del mezzo forte, comunque della sicurezza, era di metterla in un luogo comunque nascosto. Proprio in occasione del festeggiamento del centenario, quindi nel 2012, abbiamo pensato di collegarci all'idea del bello, del prodotto artigianale, dell'ornato che aveva sostanzialmente avuto mio nonno nella realizzazione del primo manufatto, della prima cassaforte con cui vinse il concorso, e così decidemmo di fare una cassaforte che potesse essere anche bella. E così ci abbiamo provato e abbiamo realizzato quindi una linea che noi chiamiamo Exclusive Safes. Sono delle casseforti sartoriali. Di queste casseforti il cliente può scegliere tutto, ovviamente il livello di sicurezza, le dimensioni, ma soprattutto il rivestimento sia esterno che interno, con dei materiali particolarissimi come ad esempio la madreperla, le pietre semipreziose, la radica di noce o qualunque altra essenza, pelle di tutti i tipi. Vengono fuori veramente degli oggetti quasi capolavoro, perché sono tutti pezzi unici realizzati su commissione del cliente. Artigianalità significa anche apprezzare i manufatti in ferro, chiavi e i forzieri, che nella storia sono stati non solo funzionali per proteggere valori, ma anche simbolici e con fregi e ornamenti preziosi da collezionare. abbiamo all'interno dell'azienda una collezione di chiavi, scrigni e forzieri antichi. Questo a testimonianza proprio di cosa riuscivano a fare i maestri artigiani nei secoli scorsi. Abbiamo appunto un piccolo museo aziendale, però veramente particolare, che offre ai visitatori una collezione unica di chiavi e scrigni forzieri che risalgono addirittura dal 300 a.C. fino all'800, quindi parliamo proprio dell'evoluzione della storia, soprattutto della chiave e della serratura. Questa collezione è stata creata più di 40 anni fa e continua chiaramente ad evolversi da mio padre, da Leopoldo, raccolta con l'intenzione di far nascere nelle persone di cultura e amanti del bello una considerazione per un'arte povera come poteva essere appunto quella del ferro battuto, insomma dell'artigianato, perché grazie appunto a questi valenti artigiani dei secoli passati si è arrivati a realizzare dei veri capolavori. Ma da sempre nella famiglia Conforti c'è un principio che per Valentina Conforti fa da guida nell'azienda. Il nostro motto, che scelse appunto mio nonno allora, che fa parte del marchio storico, era nec descendere nec morare, non arretrare mai davanti alle difficoltà. Questo era forse il motto che lui portava avanti, perché effettivamente ha affrontato tante difficoltà prima di arrivare, diciamo, a consolidare l'azienda. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.